dissi: ecco il Signore, Dio degli eserciti, rimuove da Gerusalemme e da Giuda sostegno ed appoggio, ogni sostegno di pane ed ogni appoggio d'acqua, l'eroe ed il guerriero, il giudice ed il profeta, l'indovino e l'anziano, il comandante di 50 e di notabili e il consigliere, l'abile mago e l'incantatore. Darò loro dei giovani come principi e dei capricciosi li domineranno. L'uno del popolo opprimerà l'altro, ognuno il suo prossimo. Il giovane si inorgoglirà contro l'anziano e l'abietto contro il nobile. Uno afferrerà il fratello suo nella casa paterna. Tu hai un mantello, sii nostro capo e prendi in mano questa rovina. In quel giorno l'altro risponderà: io non sono un medico. In casa mia non c'è pane né mantello. Non fatemi capo del popolo. Invero Gerusalemme è inciampata e Giuda è caduta, poiché le loro parole e le loro azioni sono contro il Signore, irritando lo sguardo della sua maestà. Il loro sguardo testimonia contro di essi. Proclamano i loro peccati come Sodoma, non lo nascondono. Guai a loro, poiché preparano la loro rovina. Dite: il giusto, sì, è felice, poiché godrà del frutto delle sue opere. Guai all'empio, lo coglierà la sventura, poiché gli capiterà secondo l'opera delle sue mani. O mio popolo, un fanciullo l'opprime e donne dominano sopra di lui. Popolo mio, i tuoi condottieri ti traviano, rovinano la strada che tu percorri. Il Signore si erge ad accusare, si presenta a giudicare il suo popolo. Il Signore entra in giudizio con gli anziani e con i principi. Siete voi che avete guastato la vigna. Le spoglie del povero si trovano nelle vostre case. Perché calpestate il mio popolo e pestate la faccia dei poveri? Oracolo del Signore, Dio degli eserciti. Il Signore dice: poiché sono orgogliose le figlie di Sion, camminano con il collo teso e con occhi provocatori, camminano a piccoli passi e dai loro piedi fanno tintinnare gli anelli, il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion. Il Signore metterà a nudo la loro fronte. In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento degli anelli alle caviglie, fermagli e lunette, orecchini, braccialetti e veli, turbanti, catenelle ai piedi, cinture, vasetti di profumo ed amuleti, anelli e monili da naso, stoffe preziose, mantellette, scialli e borsette, specchi, tuniche, tiare e vestaglie. Invece di profumo vi sarà marciume, invece della cintura una corda, invece di ricci la calvizie, invece della tunica una cintura di sacco, una bruciatura invece di bellezza. I tuoi uomini cadranno di spada ed i tuoi prodi in combattimento. Le tue porte gemeranno e saranno in lutto. Disabitata, la città giacerà a terra.